Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda, ottava puntata. Grandi casse, nere e rossicce, scolpite con arte primitiva. Un letto a baldacchino e una vecchia panca nera arredavano la camera che riceveva luce dalla porta. Alcune galline entravano ed uscivano liberamente. Paolo bevette il caffè, si lavò, ascoltò le chiacchiere della vecchia, la quale gli raccontò che litigava da 7 anni con un vicino per un diritto di passaggio in una tanca. 7 anni, figlio mio! Solo gli avvocati mi hanno già succhiato più di 2300 scudi. Ma è per il puntiglio. Capirà, pur di vincere la lite, andrei a chiederle l'elemosina. Verso sera egli uscì, ma le chiacchiere della vecchia, l'assenza dell'amico, gli sguardi delle 7 vecchie zittelle dalle sopracciglia selvagge lo avevano mortalmente rattristato. Vagò per il paese domandandosi se doveva far visita al rettore che non conosceva ancora. Il cielo si copriva di nuvole. Il paesetto, al confronto del quale Barunei pareva a Paolo una cittadina graziosa, dava l'idea di un covo di mendicanti, cupo sotto il cielo cupo. Gli uomini tornavano dai campi e dai pascoli, alcuni a piedi, altri su piccoli cavalli bianchi o neri, e parevano venir di lontano, silenziosi e stanchi, come cavalieri erranti. D'un tratto la disperazione avvolse col suo velo gelido il cuore di Paolo. Dove sono venuto a cercar fortuna? In un immondezzaio, pensò dirigendosi verso la chiesetta fra le rocce. È mai possibile che trovi danari qui, proprio qui? Molta gente s'avviava alla chiesa dove il rettore cantava i vespri. Paolo si fermò a guardare le donne, alcune delle quali bellissime nonostante il costume rozzo e barocco. Poi entrò in chiesa e si mise vicino a uno strano simulacro che rappresentava la Vergine assisa sulle nuvole. Le nuvole erano di legno nero, rotonde come palle. La Vergine in cuffia ed in grembiule pareva un idolo preistorico, mostruoso ed informe. Paolo ricordò i quadretti sacri della retrobottega di Zana e un'idea gli balenò in mente, ma subito la respinse con ribrezzo. No, egli poteva abbassarsi a tutto. Poteva umiliarsi ai più ignobili usurai. Poteva anche lasciar mettere all'asta la casa e vedere il vecchio nonno e la povera donna Rachele e l'infelice Rosa cacciati dal nido antico come bestie dal covo. Ma abbassarsi a chiedere denari ad una donna equivoca, mai, mai. Meglio morire, pensò piegando la testa. L'idea del suicidio non lo spaventava. Se io mi uccido, Ziu Zua salverà la mia famiglia. Egli mi odia ed è per far dispetto a me che non vuole aiutarci. Ma se io muoio, la figurina di Annessa gli apparve nella penombra della chiesetta. E più che al dolore dei suoi nonni e dall'angoscia della madre, pensò alla disperazione di lei e decise di avvertirla del suo funesto proposito. Così si preparerà e dopo non si tradirà. Non farà capire che eravamo amanti e potrà ugualmente sposare Gantine. No, non voglio rovinarla. Povera Annessa, anima mia cara. Lacrime sincere gli corsero lungo le guance. Per nascondere il suo dolore si inginocchiò, depose il cappello per terra, appoggiò un gomito ad una mano e con l'altra si strinse le tempie. Un coro d'una tristezza selvaggia, indescrivibile, risonava nella chiesetta. Pareva un rombo lontano di tuono, attraversato da melanconici squilli di campane, da lamenti e singhiozzi infantili. Gli uomini, inginocchiati presso l'altare, intonavano una cantilena lamentosa e nostalgica, con voci basse, eguali, supplichevoli, mentre le donne sedute per terra in fondo alla chiesa rispondevano con voce cupa e squillante. Soprattutto la voce di una, che pareva la direttrice del coro, risuonava alta e metallica come il rintocco d'una campana. L'ombra s'addensava. I pochi ciri dell'altare illuminavano appena il gruppo degli uomini, che appariva nero e bianco in un chiaroscuro lugubre. Paolo non dimenticò mai quell'ora tragica della sua vita. Quel canto selvaggio, triste, gli ricordava tutta la sua fanciullezza, triste e selvaggia. Figure dimenticate balzavano come dalla penombra della chiesetta, lo assalivano, lo stringevano, gli gridavano strane cose. Rivedeva certi profili di servi che erano stati lunghi anni in casa sua. Sentiva la sua balia che pettinava la piccola annessa e cantava una filastrocca. Poi la voce taceva, la balia spariva. Al suo posto sedeva il grosso prete Virdis col fazzoletto in mano e Rosa passava lentamente in fondo al cortile. Donna Callina, la povera morta, cerea e trasparente come un fantasma, sedeva al sole cercando invano di scaldarsi. E i devoti, nella chiesetta sempre più melanconica, proseguivano il loro canto desolato. Pareva che un popolo nomade passasse nel campo roccioso intonando un canto nostalgico, un addio alla patria perduta. Paolo sentiva questa arcana nostalgia che è nel carattere del popolo sardo. La sete del piacere, del godimento, delle avventure lo aveva sin da fanciullo spinto in una via che non era la sua. Anche lui aveva continuamente sognato una patria lontana, un luogo di gioia dove ora sentiva che non sarebbe arrivato mai più. Le sette sorelle di Ballore rimasero edificate per il contegno che egli tenne durante la novena. Ma Ballore, che era tornato dalla tanca con le mani scottate, stanco e di cattivo umore, s'accorse del profondo abbattimento di lui. «Deve essere in terribili condizioni, egli che non crede in Dio, ha finto di pregare per intenerire la sorella del rettore», pensò. E si domandò se non aveva fatto male ad invitarlo. «Come restituirà i denari? Egli non possiede più nulla, bella figura farò io col rettore e con sua sorella». Rimasti soli nella camera dal letto a baldacchino, dove era stata preparata anche la tavola per l'ospite, i due amici si guardarono in viso. «Vuoi che usciamo?» domandò Ballore. Ma Paolo lo vedeva stanco e di cattivo umore e disse: «Dove vuoi andare? Dalla persona alla quale hai promesso di presentarmi? È forse troppo tardi. Non si domandano prestiti a quest'ora». «Se occorre, perché no?» disse Ballore. Poi sospirò: «Ah, come sono stanco! Per poco il fuoco non mi avvolgeva e mi abbrustoliva come una fava, ma l'abbiamo domato. Fuggiva come un diavolo e noi dietro, con fronde e bastoni. Lo inseguivamo e lo battevamo e lo schiacciavamo come una bestia. Meno male, non è arrivato al bosco, ma ti dico io, ci ha ben morsicato. Guarda!» Fece vedere le braccia rosse, le mani infiammate. Anche la barba e le sopracciglia folte e congiunte erano bruciacchiate. Egli sentiva tutta la distanza che passava tra lui, rozzo e forte lavoratore, energico e avaro, pronto a tutto, anche a combattere col fuoco, e Paolo, dal viso fine e pallido, dagli occhi melanconici di donna, ancora cerchiati di angoscia. E guardava il suo ospite e ne sentiva pietà, ma che poteva farci? No, non poteva aiutarlo. Egli aveva tanti nemici, tante liti, e doveva pagare gli avvocati. Agli amici bastava prodigare buone parole. Buone parole, sì, quante Paolo ne volle. Tanto che egli si intenerì e si mostrò con Ballore umile e sfiduciato quanto con Don Peu s'era mostrato borioso. «Te l'ho già detto, Ballò, io sono rovinato. Se tu non mi aiuti, io non so che avverrà di me. È meglio finirla. Se io muoio, forse le sorti della mia famiglia muteranno. Vedi, sono io il cattivo genio della mia casa. Dopo la mia nascita è cominciata la decadenza. Sono andato di male in peggio, di male in peggio». «E non parlare così», disse Ballore. «Sei giovane, sei sano, puoi fare se non altro un buon matrimonio. Mi meraviglio, anzi, che tu non ci pensi. Donna Callina, beata, era una santa. ma credo che la sua anima buona gioirebbe se... Taci, supplicò Paolo, che essa non ti senta. Io non riprenderò mai moglie, eppure forse l'unico mezzo. Paolo credette che Ballore insistesse, forse per proporgli una delle sue sorelle, e provò un senso di freddo. Le donne gli piacevano, anche se brutte, purché graziose. Ma quelle sette vecchie vergini, dalle sopracciglia minacciose, gli davano l'idea di essere ibridi, metà donne e metà uccelli, e gli destavano un invincibile disgusto. Ballore, disse pensando ad Annessa, siamo uomini entrambi e tu mi compatirai. Devo dirti una cosa, io ho una relazione segreta con una donna, non sono un miserabile, sono disgraziato ma non disonesto. Forse non sposerò mai questa donna, ma non l'abbandonerò mai. Perché non puoi sposarla? È povera? È maritata, disse Paolo per non far sospettare di Annessa. Io le ho voluto sempre bene, fin da bambino, ma la fatalità ci ha separato. Io presi moglie, poi, quando rimasi vedovo, rividi la donna. In quel tempo, per il mio lutto, ero costretto ad una vita triste, casta. Non potevo divertirmi, non avvicinavo donne. Un giorno mi trovai solo con la mia amica in campagna. Io l'avevo sempre rispettata e speravo di non lasciarmi vincere mai dalla passione, ma il desiderio fu più forte di me, mi vinse, mi accecò, e il peggio fu che la donna non aspettava che un cenno per darsi interamente a me. Anche lei mi aveva sempre amato, mi si avvinghiò, si strinse a me come l'edera alla pianta. Io non la posso lasciare. Ah, Paolo, Paolo, disse Ballore sospirando, ecco il tuo guaio, sei sempre stato un debole. E tu credi che io non lo sappia? Lo so. Purtroppo, continuò Paolo eccitato, ricordando le lacrime infantili versate in chiesa, io sono un bambino e capisco che la mia debolezza, la mia impotenza furono causa dei nostri guai. E più che questi guai mi accora, appunto, il vedermi così, sempre debole, sempre fanciullo. Io ho sbagliato strada, Ballore, nessuno più potrebbe additarmi la mia via. Se avessi continuato a studiare, sarei diventato qualcosa, ma già mio padre, mia madre, i miei nonni, tutti, tutti hanno commesso un grave errore cacciandomi in seminario. Non ero uccello di gabbia, io. Chiusero la porta ed io tentai di scappare per la finestra. Allora mi mandarono via e fu da quel giorno che smarrii la strada. Nessuno mi disse che dovevo lavorare e io me ne andai per il mondo e fui come quei mendicanti che vanno di festa in festa. Anche io, nelle feste, cercavo qualcosa che non trovavo mai. Non sono cattivo però, vedi? Non ho mai fatto del bene, ma neppure del male. Tante volte, anzi, ho desiderato di poter fare almeno il male, come sanno farlo molti, con forza e con astuzia. Niente, neppure questo so fare. Ti ripeto, sono rimasto un bambino. La mia intelligenza e la mia istruzione e tutto, insomma, tutto in me si è fermato nel meglio del suo sviluppo. Sono come quei frutti che si seccano prima di maturare. L'altro ascoltava e non riusciva a capire tutta la finezza e la desolazione del discorso di Paolo. Capiva una cosa sola, che l'amico nobile non si sarebbe mai più sollevato dalla sua rovina morale e materiale e si pentiva d'averlo invitato. Chiacchierarono ancora, poi andarono a letto. All'alba Paolo si svegliò e si accorse che Ballore usciva, ma quando egli si alzò, l'amico era già rientrato e beveva un bicchierino d'acqua vite. «Che dormire ho fatto», disse Ballore. «Mi sveglio appena adesso. Bevi». Uscirono, andarono in chiesa. La festa era molto misera. I paesani, quasi tutti contadini che festeggiavano Sant'Isidoro agricoltore, avevano fatto una scarsa raccolta. Ballore anzi cominciò a lamentarsi. «Quest'inverno qualcuno morrà di fame. I tempi sono cambiati, Paolo mio. Ora tutti, chi più chi meno, stentiamo a vivere, mentre Quando io ero fanciullo, ricordo, tutti vivevano agiatamente. Che gente ricca esisteva allora, vedi? Il rettore e la sorella avevano i danari a sacchi, ma proprio a sacchi. Perciò, ricordò Paolo, furono derubati. Fu una famosa grassazione. 40 individui, armati e mascherati, e si dice che ve ne fossero parecchi del tuo paese. Paolo, non offenderti. Assalirono la casa del rettore, denudarono il povero prete e la sorella, li legarono assieme, li gettarono sopra un letto, fecero man bassa di tutto. Si dice portassero via più di 10.000 scudi. Quando Paolo e l'ospite andarono dal rettore, la sorella, una piccola vecchia con la cuffia di broccato, cominciò, appunto, a ricordare la storia della grassazione. Da 40 anni a questa parte ella non faceva altro che raccontare quella storia. La sua bocca spalancata, gli occhietti neri, fissi e vitrei, parevano ancora pieni del terrore di quell'ora mostruosa. Ce n'era uno di quei demoni, alto e nero, con una sopravveste di pelle lunga, quasi fino alle caviglie. Pareva un enorme montone rizzato sulle zampe posteriori. Figli miei, io lo sogno tutte le notti, sempre con terrore, quel demonio nero, peloso. Ci hanno rovinato. Non ci lasciarono neppure cenere nel focolare. Basta. La conclusione fu che né il rettore né la vecchia avevano denari disponibili. Paolo uscì da quella casa con la disperazione nell'anima. Ballore questa mattina deve aver consigliato la vecchia a negarmi il prestito, pensò. Il dolore e l'umiliazione risvegliarono il suo orgoglio e come Don Peu finse con Ballore una spensieratezza e un'allegria esagerate. Rimase tutto il giorno nel villaggio, spese il resto delle 100 lire in doni per le sue ospiti, bevette e rise. Ripartì il giorno dopo all'alba. Non sapeva dove dirigersi, ma non voleva assolutamente tornare in paese senza i denari. Piuttosto mi sdraio sotto un albero e mi lascio morire di fame. Cammina, cammina. Il cielo era triste, annuvolato, e la terra assetata, gli alberi polverosi, le rocce aride, aspettavano in silenzio, pazientemente, la pioggia promessa. Non si muoveva una foglia, non si udiva una voce umana, un grido di viventi. Dove andare, se tutto il mondo era per Paolo simile a quel deserto? Era finita, finita, davvero. Cammina, cammina. Il cavallo, docile e pensieroso, trottava. E quando vedeva qualche varco nei muriccioli delle tancas, non esitava ad oltrepassarlo in cerca d'una scorciatoia. D'un tratto, mentre appunto attraversava una scorciatoia nelle vicinanze del paesetto di Don Peu, Paolo si sentì chiamare da una voce che gli parve di riconoscere. Il cavallo si fermò. Un uomo, alto e grosso, con una lunga barba rossastra, e un ragazzetto lacero e selvaggio che pareva uno zingaro, s'avanzavano rapidamente. «Don Paolo! Don Paolo!» gridava l'uomo ansante e stanco. «Paolo!» riconobbe Santus, il pastore che la voce pubblica accusava di parricidio. Il ragazzetto era il figlio. «Come l'avete ritrovata finalmente, questa buona lana?» Santus prese il ragazzo per le spalle e lo scosse ruvidamente. «Ho fatto 2 volte il giro della Sardegna a piedi, ma spero di morire non disonorato. Eccolo qui, l'uccello del diavolo. Ora lo conduco dal brigadiere e dico a tutti, vedete? Se un padre può ammazzare il figlio, che vi ammazzino senza che ve ne possiate accorgere. E ora me ne lavo le mani, Don Paolo». L'uomo imprecava. Ma nonostante la stanchezza, l'ansia e i patimenti che gli si leggevano in viso, dimostrava una gioia selvaggia. Il ragazzo invece era cupo e guardava lontano, e i suoi grandi occhi azzurri parevano gli occhi di un prigioniero sognanti la fuga. «Tornate di filato in paese?» domandò Paolo, senza interessarsi molto ai casi di Santus e del ragazzo. «Subito, Le occorre qualcosa? Allora, egli disse lentamente, meditando le parole prima di pronunziarle, vi darò un biglietto che consegnerete ad Annessa, ma a lei solamente, avete capito? Inoltre, le direte a voce che per stasera non mi aspettino. Va bene, Don Paolo. Allora Paolo trasse il suo taccuino e scrisse poche parole con lapis. Ritorno, pernotterò qui, in casa di Don Peu Corbu. Viaggio inutile, nessuna fortuna, nessuna speranza. Non so quando ritornerò. Ricordati ciò che ti dissi prima di partire. Non spaventarti. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.